L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Ancora buon Natale e benvenuti alla prima di due puntate speciali dell'ottavo giorno. Oggi e sabato prossimo faremo una sorta di riepilogo, una volta si sarebbe detto almanacco dei fatti più importanti del 2009 tra politica, esteri, economia. Naturalmente lo sport, nonostante due ore a disposizione, tanti servizi che riascolteremo dei GR di Radio 24 e una serie di ospiti, non ce la faremo a farci stare dentro praticamente tutto quello che è successo in quest'anno solare 2009. Fuori dall'elenco resteranno l'influenza A, che all'inizio del 2009 era ancora influenza suina, ricorderete, divampata in un terribile focolaio in Messico, poi si è propagata in tutto il mondo con morti e preoccupazione soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, è arrivata anche da noi in Italia il 3 maggio il primo caso, il primo contagio a massa e poi il 4 settembre il primo morto a Napoli, ma bisogna dire complessivamente la pandemia sbandierata anche dall'OMS non ha poi fatto troppi danni. Lasceremo fuori da questi nostri speciali anche la cronaca nera, ci sono sempre dei processi che appassionano e dividono ogni anno, quest'anno è stata la volta di Perugia e Garlasco, a dicembre, quindi in questi giorni, in queste settimane, sono arrivate le sentenze di primo grado, condanne pesanti per Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher, e poi in questi ultimi giorni è arrivata anche la seconda condanna a 16 anni per Ghedè, per il nero che era presente nella casa di Meredith, mentre c'è stata l'assoluzione per insufficienza di prove ad Alberto Stasi. Sul piano giudiziario dobbiamo ricordare anche la vicenda di Battisti, il 18 novembre la Corte Suprema brasiliana ha detto sì all'estradizione, ma poi chissà se Lula terrà fede alla decisione dei giudici brasiliani, mentre dobbiamo anche soprassedere sulla storia bruttissima di Stefano Cucchi, il ragazzo morto in carcere il 22 ottobre tra mille dubbi e mille ombre. Tante storie e poco tempo, cominciamo però a riavvolgere il nastro del 2009 con la politica. Come viene infatti ormai da 15 anni, riassumere 12 mesi di politica italiana significa riassumere l'anno che ha vissuto, che ha trascorso Silvio Berlusconi. Un anno che è stato davvero unico, singolare nella casistica già di per sé molto particolare dell'uomo. Perché? Perché insomma fino ad aprile, forse non tutti se lo ricorderanno, quindi per i primi 4 mesi dell'anno, dal suo punto di vista di Berlusconi, il 2009 è stato sicuramente un anno trionfale. Non uso mezzi termini, ricorderete, consensi altissimi nei sondaggi, Tremonti che veniva elogiato anche da parte dell'opposizione per aver tenuto la barra nella crisi del nostro paese, e Berlusconi stesso apprezzato persino dalla stampa estera storicamente più arcigna con lui per i primi interventi tempestivi all'Aquila nei giorni tremendi del terremoto di aprile, e poi quella che possiamo definire la sua consacrazione come statista il 25 aprile, giorno della liberazione, della commemorazione della liberazione. Per la prima volta Berlusconi partecipa all'evento, va ad Onna, città, paese simbolo del terremoto, e fa un discorso di spessore che viene anche questo apprezzato un po' da tutti gli opinionisti. Il tutto mentre poi invece il Partito Democratico si reca ancora le ferite per le dimissioni da segretario di Veltroni avvenute il 17 febbraio. In qualche modo l'incantesimo si spezza a fine aprile, esattamente il 28 aprile, quando la moglie, che con una battuta si potrebbe dire in qualche modo che veste i panni della serpe in seno, dice all'ANSA le frasi che sono ormai passate alla storia sul ciarpame senza pudore. Sentiamo la ricostruzione di Paolo Piacenza. Le veline candidate alle europee? Qualcuno ha scritto che tutto questo è a sostegno del divertimento dell'imperatore. Condivido quello che emerge dai giornali, è un ciarpame senza pudore, tutto in nome del potere. Parola di Veronica Lario Berlusconi. La dichiarazione rilasciata via mail nella serata di ieri all'agenzia di stampa ANSA dalla moglie del Presidente del Consiglio e di quelle che lasciano il segno e rivela un evidente fastidio. Nessuna condiscendenza per il punto di vista del marito, che dalla Polonia bolla la polemica sulle candidate del PDL come veramente deludente. Veronica Lario non apprezza questo modello di selezione delle candidature. Per fortuna, scrive, è da tempo che c'è un futuro al femminile sia nell'imprenditoria che nella politica. Dopo l'uscita di Veronica Lario, che sicuramente non è né casuale né impulsivo, non a caso adesso tra l'altro Berlusconi ha le prese anche con un divorzio piuttosto complicato, sale la marea che rischia anche di travolgere lo stesso Berlusconi, perché nel giro di pochissimo tempo vengono fuori la storia di Noemi e il sospetto anche piuttosto fastidioso di andare a letto con le minorenni, le escort a Villa Certosa e Palazzo Grazioli, e su tutte naturalmente il nome di Patrizia Daddario. C'è anche un certo fastidio della Chiesa per i comportamenti disinvolti del premier, che poi rischia di diventare anche quasi uno scontro diplomatico quando c'è tutta la vicenda di Dino Boffo, il direttore dell'Avvenire, colpito pesantemente dal giornale di Feltri e poi costretto alle dimissioni. Accanto a me c'è Stefano Folli, notista politico del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno. A te Stefano vorrei chiedere uno sforzo forse un po' complicato, cioè quello di mettere un po' d'ordine tra le tante cose che ho già detto, tenendo conto che non ho ancora parlato né delle vicissitudini giudiziarie di Berlusconi, che sono state piuttosto pesanti in questo 2009, né dell'aggressione che chiude un po' questo anno solare del 13 dicembre a Milano. Nonostante questo, solo restando all'elenco che ho appena fatto, diciamo è stato un anno abbastanza burrascoso per il premier, nonostante poi i risultati elettorali sia le europee che le amministrative di primavera, che non sono stati deludenti per lui e per il PDL. Ma è stato sicuramente da questo punto di vista l'anno di Berlusconi, in cui tutto si è intrecciato, la politica e il privato, in forme anche nevrotiche. C'è stato un tentativo evidente di metterlo con le spalle al muro, facendo leva su questi aspetti molto privati, frequentazione di donne eccetera, che hai ricordato. Questa cosa non è andata in porto. Alla fine Berlusconi, alla fine dell'anno, anche in relazione all'aggressione di Milano, è tornato a livelli di popolarità molto grandi, vestendo i panni del martire in fondo. Beh, insomma, però l'aggressione c'è stata, il ferimento è stata una cosa gravissima, la solidarietà è stata sincera e molto ampia da parte anche di oppositori. Il risultato qual è? Che effettivamente viviamo in una situazione in cui la personalità di Berlusconi prevale sul resto, prevale un po' su tutto, anche un po' sulla qualità in certi casi dell'azione di governo, quando pensiamo non tanto alla politica economica, alla politica sociale, ma a quell'aspetto profondo del modo di governare una moderna democrazia, che sono le istituzioni efficienti, funzionanti. Quello che si dice, e cioè che noi abbiamo bisogno di riforme, lo si dice continuamente, l'ha ripetuto ancora di recente il Capo dello Stato, e questo non l'abbiamo avuto. Ed è strano che non l'abbiamo avuto nonostante una maggioranza così ampia e nonostante un dibattito pubblico che, appunto, in maniera un po' singolare si è molto attaccato alle questioni private di Berlusconi, alla sua vita intima eccetera, e ha perso un po' di vista quelli che sono i centri nevralgici dei problemi di un paese complesso come l'Italia. Quindi stai dicendo che in questo paese ormai essere berlusconiani o anti-berlusconiani viene prima di una serena analisi? Sì, esaurisce un po' quello che succede, esaurisce un po' tutto il dibattito in una polemica spesso sterile, ripetuta ossessivamente, ed è un alibi anche per lo stesso Berlusconi, che secondo me avrebbe potuto fare di più come uomo di governo, come statista titolare di una grande maggioranza, ma è rimasto un po' irretito, un po' ha voluto farsi irretire in questa polemica spiccia, che alla fine ha prodotto poco. Insomma, la fine dell'anno dal punto di vista del bilancio complessivo politico non è un granché, non c'è dubbio. Ecco, poi tra l'altro bisogna dire che quasi d'incanto, così come era esploso lo scandalo sessuale attorno a Berlusconi, evapora in un certo senso quando poi si sovrappone un altro scandalo, per molti versi ancora più inquietante, più sconvolgente, e cioè quello che riguarda Marrazzo, perché il 22 ottobre scoppia il caso del presidente della Regione Lazio, che poi è costretto a dimettersi pochi giorni dopo, il 27 di ottobre, per delle frequentazioni ed un ricatto legato a una serie di trans. Torniamo proprio al giorno delle dimissioni di Marrazzo, il 27 ottobre, con questo servizio di Andrea Viali. Parla di condizioni personali di sofferenza estrema Piero Marrazzo nella lettera con la quale ieri ha deciso di anticipare le sue dimissioni da governatore del Lazio, una missiva letta davanti alle telecamere da uno dei portavoce della regione. Voglio dire che finché mi è stato possibile ho operato per il bene della comunità laziale. Mi auguro che questo possa essermi riconosciuto, al di là degli errori personali che posso aver commesso nella mia vita privata. Vicenda molto oscura quella di Marrazzo, che tra l'altro sconfina anche dalla cronaca nera, perché bisogna ricordare almeno due morti su cui poi bisogna fare chiarezza: quella del trans Brenda, morta in circostanze molto sospette il 20 novembre, e poi il 12 settembre anche una morte poco chiara, quella di Gian Guarino Cafasso, che avrebbe avuto un ruolo nella tentata compravendita del famoso video che ha incastrato Marrazzo. Adesso ci fermiamo, tra poco ancora politica in compagnia di Stefano Folli. L'ottavo giorno. Finora, a proposito del 2009 nella politica italiana, non abbiamo ancora speso una parola sulla giustizia, che in fondo è stato il tema dominante, quasi drammatico, soprattutto nella parte finale di quest'anno. possiamo anche definirlo l'imbuto nel quale poi ogni cosa si è andata ad infilare nel dibattito parlamentare. La svolta viene sancita decisamente dalla bocciatura del lodo Alfano da parte della Consulta, era il 7 ottobre, la ricostruzione di Raffaella Calandra. Illegittimo perché la legge è uguale per tutti, come è scritto in tutte le aule dei tribunali, e una norma così che per le quattro alte cariche dello Stato faceva da scudo ai processi non si può introdurre per strade ordinarie. La Consulta dunque boccia in pieno il lodo Alfano dopo una camera di consiglio lunga un giorno e mezzo, e lo fa per 3-9-6, una differenza minore rispetto al pollice verso dei giudici per l'analogo provvedimento del lodo Schifani. Ma ora, come 5 anni fa, la Corte torna a dire che queste leggi violano il principio dell'uguaglianza dei cittadini, uno dei cardini della Costituzione scritto nell'articolo 3. Tra le possibili strade, questa era la più temuta da Palazzo Chigi, perché un'eventuale correzione, stavolta per via costituzionale, richiederebbe una doppia lettura delle Camere e una maggioranza qualificata. Insomma, tempi lunghi, mentre i processi a carico del Premier, da cui erano partiti i 3 ricorsi arrivati alla Consulta, riprenderanno presto. In realtà i processi che riguardano Berlusconi, quello Mills soprattutto e quello sui diritti TV Mediaset, non sono ancora ripartiti per il momento, però nonostante questo Berlusconi ha preso delle batoste sul piano giudiziario. Ricordiamo la doppia condanna in appello all'avvocato Mills, che di fatto è collegata anche alla vicenda personale di Berlusconi. Poi c'è la Mondadori, la sentenza del 3 ottobre con una condanna ad un mega risarcimento di 750 milioni alla CIR di De Benedetti, risarcimento per ora congelato. E poi di fatto Stefano Folli, collega del Sole 24 Ore qui al mio fianco, negli ultimi mesi non si è parlato e non si è di fatto litigato su altro se non sulla giustizia. Sì, è il grande buco nero, diciamo, del nostro sistema. Le questioni giudiziarie che riguardano Berlusconi hanno un effetto destabilizzante enorme sulla maggioranza di governo, innescano la polemica su cosa sia più importante, cioè se, diciamo, il rispetto delle regole che la magistratura deve verificare oppure la legittimazione popolare. E Berlusconi naturalmente dice: no, la legittimazione popolare è superiore a tutto, quindi io ho il diritto di governare. Questo crea una tensione permanente. Lodo Alfano doveva servire a eliminare dal terreno di gioco la questione processuale per tutto il periodo del mandato, non è andato in porto, e adesso noi viviamo in una situazione di fibrillazione. Probabilmente adesso, in questi ultimi giorni natalizi, un clima migliore. Il capo dello Stato, pur senza minimamente mettere tra parentesi le questioni importanti che riguardano il rispetto della magistratura e anche il rispetto che la magistratura deve agli altri poteri dello Stato, però il capo dello Stato ha cercato di svelenire il clima, e dopo l'aggressione di Milano sembra che ci sia effettivamente la possibilità di ottenere questo risultato. La situazione è difficile, ci sono crolli e persone coinvolte e anche delle vittime. Questo è il primo bilancio della Protezione Civile di questo terremoto di 8° e 9° grado della scala Mercalli, che ha colpito questa notte L'Aquila, che è stato avvertito in tutta l'Italia centrale. È la voce di Dario Ciccarelli. Siamo all'alba di lunedì 6 aprile. L'Aquila e l'Abruzzo sono stati colpiti da pochissime ore da un terremoto violentissimo di 6,3 gradi della scala Richter. Esattamente l'ora fatale è le 3:32 del mattino. Le perdite umane e i danni materiali ed economici sono gravissimi. 308 morti, il bilancio ufficiale, 1600 feriti, alcuni sono ancora piuttosto gravi, migliaia di sfollati, interi paesi distrutti, beni artistici di grande valore andati persi o comunque gravemente danneggiati, attività economiche bloccate, anche queste compromesse. Sentiamo allora la ricostruzione delle prime terribili ore, le prime 24 ore del primo giorno, firmata da Anna Migliorati proprio in quei momenti terribili. Quando la terra ha tremato alle 23 e poi all'1 di notte, in pochi si sono allarmati. Poi alle 3:32 è stato l'inferno. Noi eravamo a letto, ci è caduto in testa in tonaco e altro, e io con i piedi nudi sui mattoni sono andata nell'altra cameretta per prendere i bimbi che pensavo di trovare sommersi. Abbiamo soltanto sentito la casa tremare e le mura venire giù, terrificante, terrificante. Poi in strada abbiamo trovato tegole, cornicioni che cadevano da tutte le parti. In strada, nelle piazze, nei parcheggi dei supermercati, nei campi sportivi, si aspetta il sole e che arrivino ambulanze e le prime notizie. E a Radio 24, tra i primi racconti, quello del sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Sì, abbiamo il centro storico crollato, gente sotto le macerie, stanno stiamo disponendo tutti gli uomini disponibili. Sono le 10 del mattino, gli ospedali sono in emergenza. Stanno evacuando l'ospedale, alcuni reparti dell'ospedale, perché ci sono dei reparti che hanno subito dei danni. Le notizie cominciano ad arrivare anche dai comuni limitrofi. Paganica non c'è più, a Fossa è crollato anche un costone di roccia. Il centro storico praticamente non esiste più. Mentre correvamo, mentre scappavamo dalla casa, continuava sempre a fare il terremoto. È durata tantissimo, un'eternità. È drammatico, sono cadute le rocce dei sassi nella montagna, crollato il campanile, diversi edifici sono crollati. Dopo le 13 è ancora panico. In città, nei centri di accoglienza, cominciano ad arrivare i primi pasti caldi, altrove è difficile. C'è gente che sta nei prati, qualcuno sta mangiando qualcosa perché è da stanotte che stiamo fuori. Panico. Sei di fine di dicembre che cominciavano, ci sono state una serie di scosse, era una cosa, ecco, adesso sta facendo molto forte. Sì, lo sentiamo, vedo poi muoversi il tutto, si è sentito anche un boato. Passano le ore, si cerca di attrezzarsi per la notte, chi in macchina. Luoghi di accoglienza di Santa Barbara e Cendicolella. È stato anche detto che troppa gente e di evitare di spostarci. Hanno già allestito la tendopoli, noi siamo adiacenti alla strada provinciale in mezzo all'aperta campagna e vediamo tante pattuglie dei vigili del fuoco passare con la speranza che vengono qua, ma... Quando cala il buio, ognuno ha trovato la sua sistemazione. Dormire, quello, è tutt'altra cosa. Tra le voci concitate delle testimonianze abbiamo anche riconosciuto Vincenzo Miglietta, collega della redazione politica di Radio 24, che era lì a caldo in quei giorni, quella settimana di Pasqua poco festosa per Abruzzo e per L'Aquila. Vincenzo è qui in studio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Vincenzo, che ricordo hai, che ricordo ti porterai credo dentro per sempre di questo lutto terribile, di questa tragedia di L'Aquila? Sì, un ricordo veramente molto forte, perché io arrivai subito la mattina del 6 aprile facendo delle strade molto, molto particolari, l'autostrada era impraticabile, per cui arrivai all'Aquila passando per l'Alto Lazio attraverso Rieti, e la sensazione che avevo avvicinandomi all'Aquila era proprio dell'incognita che avevo davanti a me, quello che avrei trovato, e in effetti non avrei mai potuto immaginare quello che effettivamente vidi di lì a poche ore: l'Aquila completamente distrutta e la macchina organizzativa che stava in quei minuti, in quelle ore, iniziando a mettersi in moto. E la cosa che non scorderò mai era il fatto che in quei momenti si potesse girare anche nel centro storico più distrutto in maniera completamente incontrollata. Io in quei momenti sono andato veramente dove ho voluto, in una città che in quei momenti era veramente una città fantasma. Poi l'ordine in quanto tempo è rientrato, diciamo? L'ordine sembrerà strano, ma sotto quell'aspetto lì ci sono voluti un paio di giorni. Per il lunedì e il martedì ancora mi ricordo che tutti gli aiuti erano giustamente indirizzati a chi era ancora sotto le macerie e chi doveva avere un tetto sopra la testa, ma tutto il resto era lasciato veramente alla civiltà di ognuno di noi. Tra l'altro, sempre in quelle prime ore caotiche sei anche andato a Donna, che poi è diventato il paese simbolo del terremoto, ricordo una frazione di L'Aquila di 350 abitanti, in proporzione quella più colpita poi sia nei danni degli edifici ma soprattutto nelle perdite umane dal sisma. Sì, Onna, ecco, è un altro bellissimo ricordo, vorrei metterlo in positivo, perché incontrai delle famiglie che tuttora porto nei miei ricordi. Bisogna considerare Onna già molto diversa dall'Aquila, il tipico paesino fatto con queste costruzioni ancora in pietra, quindi venuto completamente tutto giù, con tanti morti, furono ben 40, ma una grande umanità da parte di queste persone, molto semplici, molte persone legate proprio al lavoro della terra, che in quella terribile notte tra il lunedì e il martedì non sapevano veramente ancora dove dormire, perché a Donna gli aiuti, almeno per quanto riguarda la tendopoli, sono arrivati leggermente in ritardo. Tu Vincenzo, dopo i primi giorni a caldo sei tornato all'Aquila tantissime volte, almeno nei primi 3 mesi, fino praticamente al G8 di inizio luglio, quindi hai toccato con mano anche il recupero, il tentativo di ripresa anche di una vita normale per quello che può essere tra le tendopoli o comunque tra le macerie dell'Abruzzo. Secondo te oggi, dopo 8 mesi, si può tentare di fare un bilancio tenendo conto naturalmente che l'emergenza è una cosa, poi la ricostruzione è un'altra, avrà bisogno di altri tempi e procede su binari diversi, però mi sembra insomma che sull'emergenza quasi tutti, la destra, la sinistra, insomma oppositori o amanti di Berlusconi, insomma comunque hanno tentato di apprezzare l'intervento tempestivo del governo e soprattutto di Bertolaso, il gran capo della protezione civile. Si può fare, ecco, almeno un bilancio sull'emergenza, gli sfollati a che punto sono oggi, diciamo Natale 2009? Il bilancio è sicuramente positivo. Parlavo prima delle difficoltà che ci furono nei primi giorni, ma difficoltà oggettive. Devo dire che dopo la macchina dell'emergenza è stata superlativa, sia in quei primi mesi sia adesso. Sappiamo che la popolazione è al 90% di nuovo sotto un tetto, magari non il loro logicamente, perché per la ricostruzione del centro storico ci vorranno anni e non si sa neanche se alcuni palazzi potranno essere rifatti laddove erano. Però ragionalmente possiamo dire che ad un anno dal sisma, cioè ad aprile dell'anno prossimo, del 2010, le tendopoli saranno sparite dalla Sì, questo sicuramente sì, penso che ne siano rimaste veramente poche al momento. Invece sul versante della ricostruzione si è parlato di New Town, progetti anche ambiziosi, oltre che costosi, il recupero del centro storico, riapertura delle attività economiche dei centri storici e poi il discorso dei monumenti, per i quali poi moltissimi paesi europei e mondiali, insomma, soprattutto sull'onda del G8, si erano impegnati a finanziare delle ristrutturazioni, dei restauri, e lì mi sembra che la cosa sia un po' più indefinita. Lì è un po' più difficoltoso il processo. Dobbiamo dire che la New Town immaginata all'inizio proprio dal Presidente del Consiglio Berlusconi, cioè l'Aquila Bis, è un progetto che è decaduto. Sono stati poi costruiti... Che sarebbe sorto altrove rispetto, certo, al centro storico. Assolutamente. E invece giustamente sono stati costruite queste nuove palazzine laddove è stato possibile, con l'obiettivo poi di riportare gli aquilani nel loro centro storico, che sappiamo quanto fosse bello. Da sottolineare invece il ritardo da parte dei paesi che hanno partecipato al G8 nel loro intervento su quei monumenti che avevano annunciato di voler adottare. E quindi a caldo hanno fatto promesse che per ora non stanno mantenendo. Speriamo invece che ci sia un cambio di rotta con il 2010. Naturalmente facciamo gli auguri agli aquilani, a tutti i tanti sfollati che sono ancora alle prese con i problemi di un post terremoto che sarà lungo, purtroppo, credo, per molti anni. Ringrazio Vincenzo Miglietta, naturalmente rinnovo anche a te gli auguri di Natale. Noi adesso ci fermiamo, ripartiamo dopo la pausa parlando invece di economia. L'ottavo giorno. Il 2009 sul fronte dell'economia è stato sicuramente l'anno degli effetti della crisi inaugurata dal crack di Lehman Brothers nel settembre del 2008. L'osservato speciale numero uno è stato naturalmente l'America di Obama, che appena insediato deve subito affrontare di petto la crisi dilagante nel suo paese, dove tra l'altro per tutto l'anno si fanno i conti sempre più incerti, sempre più affannosi, con i livelli di disoccupazione che viaggia ormai verso e oltre il 10%. Torniamo alla fine di marzo, questo è il piano economico varato proprio dall'amministrazione Obama pochi giorni, poche settimane dopo il suo insediamento. Sentiamo Sergio Nava. È un piano che punta a sanare il peccato originale dell'attuale crisi economico-finanziaria, ripulendo i bilanci delle banche dalle bombe ad orologeria degli asset tossici che finora hanno strozzato il meccanismo del credito. Per ora un primo risultato l'ha raggiunto: le borse europee e quella americana ieri hanno fatto segnare forti rialzi sull'onda dell'ottimismo. Il segretario al tesoro Geithner, intervenuto nella notte italiana a una conferenza a Washington, ha però accolto con prudenza la reazione dei mercati ai dettagli del piano. Geithner ha aggiunto di vedere segnali positivi nel settore della disponibilità finanziaria delle imprese. Il piano si baserà su una partnership tra pubblico e privato. Il tesoro metterà sul tavolo tra 75 e 100 miliardi di dollari, prelevandoli dal programma di recupero degli assets problematici. Il progetto è acquistare assets tossici, il cui valore potrebbe raggiungere i 1.000 miliardi. Il meccanismo prevede una partecipazione del tesoro pari al 50% del capitale di ogni fondo che acquisterà gli assets. I privati ne assumeranno invece la gestione. Le banche identificheranno quali assets intendono vendere. Per esempio, per ogni $100 in mutui acquistati da una banca, governo e privati metteranno $6 ciascuno. Il resto sarà coperto grazie a un prestito. Il presidente Obama ha sottolineato come questo non sbloccherà il credito in una notte, ma l'amministrazione ripone molta fiducia nel progetto. Due i grandi interrogativi che aleggiano: i privati investiranno denaro e quale incentivo avranno le banche a vendere? In economia direi che il percorso di Obama è stato molto ad ostacoli, perché le banche, imputate numero uno della crisi in cui è sprofondata l'America, alla lunga non si sono poi fatte domare troppo da Obama e dalle sue iniziative. E chissà poi se pensava anche soprattutto a questo e alle scelte in campo economico Arianna Huffington, forse la più celebre blogger progressista d'America, che ad un anno dalle elezioni, tracciando un bilancio di Obama, ha detto: purtroppo l'audacia della vittoria ha ceduto il posto alla timidezza del governare. Ad inizio dicembre Obama è tornato prepotentemente, con ardore, con orgoglio, a parlare di economia e indicare la strada per uscire dalla crisi. Ha identificato soprattutto tre pilastri, che sono l'energia pulita, ovvero la rivoluzione verde sulla quale punta molto, poi le infrastrutture per creare nuovi posti di lavoro, in fondo la ricetta antica di Roosevelt degli anni 30, quindi chissà che porti bene ad Obama e agli Stati Uniti, e poi l'aiuto, gli aiuti alle piccole imprese. E poi c'è un'altra grande sfida che merita di essere ricordata, che Obama ha intrapreso quest'anno e in parte è riuscito anche a portare in porto, cioè la riforma sanitaria che è stata fino a Natale discussa al Senato. Obama sta cercando in tutti i modi di coronare il sogno di Ted Kennedy, il leone democratico, l'ultimo dei Kennedy, che è scomparso peraltro quest'anno il 25 agosto a 77 anni. Però almeno un colpevole della crisi di cui abbiamo parlato in questi primi minuti c'è stato e ha pagato salatissimo in questo 2009. Sto parlando di Bernie Madoff, l'autore della più colossale, della più incredibile frode della storia. A fine marzo parla per la prima volta da imputato davanti ai giudici. Ricordiamo allora la sua storia e la sua deposizione con Cristina Balotelli. Nella patria della SEC, la più grande autorità di controllo dei mercati finanziari, l'ex presidente del Nasdaq Bernard Madoff è riuscito a mettere a segno la più grande truffa di Wall Street, 50 miliardi di dollari andati in fumo. Ci è riuscito per un motivo molto semplice: nessuno ha controllato. Ieri, davanti al giudice in un tribunale di Manhattan, ha ammesso la sua colpevolezza. Aveva messo in piedi una sorta di catena di Sant'Antonio, un sistema di vendita noto come schema Ponzi, dal nome di un truffatore italiano, che promette forti guadagni ai sottoscrittori a patto che reclutino nuovi investitori che saranno a loro volta truffati. Madoff poteva così permettersi una vita da nababbo. Ora però, su ordine del giudice, ha dovuto lasciare il suo lussuoso attico a Park Avenue per una cella di un penitenziario affollato, dove dovrà attendere la sentenza prevista per giugno. Ho perso tutto, e quando perdi tutto non ti importa più di niente. Ero andato in pensione, ora devo ricominciare a lavorare, dice quest'uomo che ha assistito all'udienza. Il finanziere rischia di finire la sua vita in carcere, ma chi ha perso non sarà risarcito. Per la cronaca, il 29 giugno Madoff è stato condannato a 150 anni di carcere, quindi una pena esemplare, tenendo conto che poi ha 71 anni e che in America non si esce così facilmente dalla prigione, è probabile che lì passerà il resto della sua vita. E sempre dall'America, cambiamo in parte il discorso, ma restiamo naturalmente sempre nell'ambito economico, prende forma nel 2009, in quest'anno che si è appena concluso, che si sta concludendo, una delle imprese economiche più importanti, più eclatanti per l'Italia, da molto tempo a questa parte, un'impresa che peraltro fino a poco tempo fa sarebbe stata a dir poco inconcepibile. Sto parlando dell'alleanza tra la Fiat e la Chrysler, quindi con la casa torinese che va in aiuto, va in soccorso di un'agonizzante Chrysler, una delle tre madri dell'auto americana, tutte colpite come nessun altro dalla crisi. Giovedì 30 aprile anche Obama certifica l'accordo. Sentiamo Valeria De Rosa. Today I am pleased to announce that Chrysler and Fiat have formed a partnership that has a strong chance of success. Avevo dato a Chrysler e Fiat 30 giorni per trovare un accordo. Ebbene, oggi sono lieto di annunciare che le due case automobilistiche hanno raggiunto un'intesa, una grande possibilità di successo. La firma dunque c'è, ed è lo stesso presidente Obama a raccontarla, partendo dai tanti posti di lavoro salvati e arrivando a dire che Chrysler non solo è destinata a sopravvivere, ma anche a prosperare. Sono stati fatti i passi necessari per ridare a Chrysler una nuova vita, aggiunge. Fiat è l'unica possibilità di salvezza. Durante la bancarotta il governo americano sosterrà la più piccola delle case di Detroit con finanziamenti per circa 3 miliardi di dollari. Una bancarotta veloce, assicura Obama, 30-60 giorni al massimo, ma Fiat non avrà la maggioranza fino a quando non sarà restituito l'intero prestito accordato dal governo alla casa automobilistica americana. L'intesa non dispiace anche ai sindacati italiani. Il rischio, però, avvertono, è che il lingotto sposti la sua attenzione, il suo tempo e le risorse verso gli Stati Uniti. In quest'anno di crisi è stata creata molta attesa, a volte anche un po' eccessiva, per i grandi vertici economici che si sono tenuti, ce ne sono stati parecchi, per esempio 2G20, il primo a Londra ad aprile, nel quale sono stati siglati degli impegni sostanziosi da 1.000 miliardi per rilanciare l'economia, e poi il secondo a settembre a Pittsburgh, dove invece è stato siglato un patto per la crescita sostenibile e sono stati messi dei limiti ai bonus dei manager delle banche. Poi c'è stato un vertice fiume a Copenaghen sul clima, parliamo davvero di pochissime settimane fa, il vertice è svolto tra il 7 e il 19 di dicembre. Finale direi decisamente al ribasso, con un mini accordo in 12 punti ma senza chiari limiti alle emissioni di CO2. Di fatto è stata una vittoria per la Cina, mentre poca cosa per Obama, che pure nutriva molte ambizioni per questo vertice. Poi c'è stato il vertice invece del G8 all'Aquila a luglio, che per ovvi motivi era molto sentito da noi italiani. Torniamo all'8 e il 10 luglio, nei luoghi appunto del terremoto, a soltanto 3 mesi poi dal sisma. Sicuramente rimarranno nella memoria le camminate tra le rovine dei potenti della terra, ma soprattutto la camminata di Obama e di Carla Bruni. E molti di loro peraltro si sono impegnati poi a finanziare il restauro di edifici storici o di chiese andate distrutte nel terremoto, ma per ora si sono visti davvero pochi soldi. In particolare invece, per quello che riguarda i lavori del summit, viene raggiunto un accordo per combattere i paradisi fiscali. Ma con Sergio Nava, inviato all'Aquila in quei giorni di Radio 24, riviviamo la prima giornata del G8. Consenso generale su tutto, quasi, ma poche misure concrete per dare seguito alle promesse. Si è conclusa così la prima giornata del G8 all'Aquila, dove a tenere banco sono stati soprattutto 3 temi, economia, ambiente e aiuti all'Africa. Sul primo punto gli 8 mantengono alta l'attenzione. Ci sono segni di stabilizzazione della crisi, scrivono nel comunicato di fine giornata, ma la situazione resta incerta e permangono rischi per la stabilità economico-finanziaria. Sì, invece, alla lotta al protezionismo e all'evasione. L'Italia incassa il via libera sui Global Legal Standard, le 12 nuove regole etiche della finanza, come osserva il Premier Berlusconi. In modo che si possa uscire da questa crisi anche preparando un codice di principi, di valori, di regole che possono far sì che in futuro non si ripeta ciò che oggi invece è successo. Ma si tratta solo di un primo passo, nessuna codifica, nessun trattato ufficiale, almeno per il momento. Se ne riparlerà al G20 di settembre e ancora oltre. Anche sul clima, obiettivi raggiunti solo parzialmente. Gli 8 hanno fissato in 2 gradi il tetto massimo di aumento della temperatura globale, proponendo una riduzione delle emissioni nocive pari al 50%. Ma oggi se la dovranno vedere con le economie emergenti, soprattutto India e Cina, meno disponibili a concessioni così nette. Infine il capitolo africano, con il rinnovo di un impegno per gli aiuti già sottoscritti a Green Eagles e già snobbato da diversi paesi, Italia e Francia in testa. Anche per questo Berlusconi ha promesso nuovi aiuti entro l'anno. La conferenza stampa del Premier ha avuto un finale anomalo, forse per timore di domande ostiche. Berlusconi ha finto di chiedere interventi della stampa. Se avete organizzato delle domande, vi do risposta. E senza però guardare la platea, ma il portavoce Bonaiuti, che faceva segno di no, il Premier ha sentenziato: non ci sono domande. Lasciando di sasso i reporter che la mano l'avevano alzata. Chiudiamo con un rapido rendiconto delle scelte economiche invece fatte in casa nostra dal nostro governo italiano. Escludiamo, permettetemi la battuta, dagli interventi dello Stato la vittoria al Superenalotto del 22 agosto, un jackpot fantascientifico da 148 milioni di euro. Pensate, giocato con una schedina soltanto da 2 euro a Bagnone in provincia di Messina. C'è stata invece la finanziaria, che è appena stata licenziata dal Parlamento e che ha dato naturalmente priorità ad arginare gli effetti della crisi, quindi i pochi soldi a disposizione sono stati utilizzati per gli ammortizzatori sociali e per dei settori chiave come la giustizia e la sanità. Bisogna dire che molti dei soldi che poi sono finiti nella manovra arrivano dallo scudo fiscale, che, se vogliamo, in campo economico è l'iniziativa che verrà ricordata più di altre in questo 2009 dal governo italiano. Il provvedimento è stato contestato da molti, ma giustificato dallo stesso governo, provvedimento che, ricordo, favorisce il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero. Inizialmente la scadenza era il 31 dicembre 2008, poi nei giorni scorsi è stato prorogato fino alla fine di aprile. Il 2 ottobre arriva l'approvazione alla Camera in un clima a dir poco infuocato. Sentiamo la cronaca con Vincenzo Miglietta. Quanto accaduto alla Camera è quasi dell'incredibile, come se, usando una metafora calcistica, all'ultimo minuto la squadra più debole sprecasse un calcio di rigore. Se l'opposizione infatti fosse stata al completo con i suoi 279 deputati, il decreto anticrisi, che contiene il discusso scudo fiscale, non sarebbe passato. Il testo è stato approvato invece con 270 sì contro 250 no. Del PD mancavano 22 deputati, 6 dell'UDC e 1 dell'Italia dei Valori. Situazione analoga nella maggioranza, 31 gli assenti nel PDL, 4 nella Lega. Assenze a parte, gli attimi che hanno preceduto il voto hanno rasentato la bagarre. A scatenarla l'Italia dei Valori, prima esponendo le agende rosse di Borsellino, poi dando del mafioso al governo così barbato. State state aiutando la mafia con atti legislativi. A protestare tutto il centrodestra, ma anche l'UDC con Casini. Se continua così l'Italia dei valori, Berlusconi rimarrà al governo per altri 60 anni. Poco dopo la sospensione dei lavori e poi alla ripresa le parole del presidente della Camera Fini. L'ufficio di presidenza valuterà la, a mio avviso, oggettiva gravità di quel che è stato detto e deciderà in quella sede gli eventuali necessari provvedimenti di tipo disciplinare. Tra poco chiudiamo questa puntata con lo sport, abbiamo un bel po' di campioni da celebrare, da Messi a Pellegrini, figure più o meno controverse come Mourinho, la Formula 1 impazzita di questo 2009. L'ottavo giorno. Il 2009, come un po' tutti gli anni dispari, non ha avuto un evento sportivo che ha sovrastato tutti gli altri, come possono essere i mondiali di calcio o le Olimpiadi. Questo naturalmente non significa che per lo sport non ci siano stati tanti, tantissimi avvenimenti, molti personaggi, vecchi e nuovi, che si sono imposti, alcuni naturalmente nel bene, altri nel male, e quindi cercheremo un po' di riepilogare questi 12 mesi del 2009 dello sport. E per aprire questo nostro rapido e personalissimo riepilogo ho scelto l'impresa, che tra l'altro non è neanche l'unica, di una donna che possiamo sicuramente celebrare come la sportiva italiana del 2009. Sto parlando di Federica Pellegrini, star annunciata e per fortuna felicemente confermata dei mondiali di nuoto che si sono svolti a Roma tra il 19 luglio e il 2 agosto. Il 26 luglio, quindi al suo primo giorno di gare, subito c'entra l'oro. Sentiamo Dario Ricci. E dire che prima del via aveva avuto anche qualche linea di febbre, ma basta un tuffo a Federica Pellegrini per dimenticare paure e incertezze e diventare la regina di Roma. Oro il record del mondo sui 400 stile libero, la gara delle ansie, dei malori, dei primati. Vola in progressione Federica, tra il tifo dei 12.000 del Foro Italico, e stronca la resistenza delle temibili inglese Jackson e Adlington, relegate al ruolo di damigelle d'onore sul podio. E il 3:59:15 sul tabellone luminoso fa di Federica la prima donna nella storia ad abbattere il muro dei 4 minuti. E come per magia Dario Ricci non è soltanto una voce del nostro repertorio, ma è anche qui in carne ed ossa. Buongiorno Dario. Buongiorno Emiliano, buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Allora Dario, per la cronaca, la Pellegrini che tu hai visto da vicino perché eri inviato a Roma quest'estate per i mondiali non si è fermata soltanto all'oro del 26 luglio, poi ha vinto anche i 200 stile libero e l'Italia ha chiuso felicemente, direi, al settimo posto nel medagliere con 4 ori, 1 argento e 5 bronzi. Direi insomma che la Pellegrini è stata la protagonista dei mondiali di nuoto, tutti al femminile tra l'altro. Che ricordo hai di quei giorni molto belli e molto caldi di Roma? Beh, giorni fantastici per il nostro sport, giorni attesi perché Roma era attesa appunto anche ad una prova organizzativa che almeno sul campo, pur tra molti affanni, è stata superata e non a caso poi in qualche modo è stata anche l'esperienza dei mondiali volano per quella che poi è la candidatura olimpica di Roma in vista del 2020. Giorni sensazionali e giorni anche che ricordo e ricordiamo con grande emozione, pensando poi che uno dei protagonisti di quelle giornate, e che protagonista, è il CT azzurro e allenatore di Federica, Alberto Castagnetti, dopo pochi mesi è scomparso e ha reso ancora più incredibile, tragico e straordinario in qualche modo l'anno della Pellegrini, che poi è riuscita a risorgere da questo trauma, da questo dolore, confermandosi protagonista poi agli europei in vasca corta di Istanbul, successo sui 200 stile libero, record del mondo, insomma Pellegrini e insomma Federica è tornata alla grande anche alla fine di quest'anno veramente particolarissimo per lei, e un anno, come dicevamo Emiliano, segnato dai successi delle donne azzurre, la ginnastica ritmica, la pallavolo, il tennis, le nuotatrici appunto, perché oltre Federica c'era anche Alessia Filippi, insomma un anno rosa in cui Federica è la regina tra tante vallette d'eccezione. Dario, tu hai ricordato l'organizzazione perfetta dei mondiali di nuoto, poi per la cronaca ricordo che mesi dopo sono arrivate le indagini, ci sono stati anche degli impianti chiusi, Malagò è finito un po' nei guai, però questo naturalmente non cancella invece il momento, la fotografia di quella fine di luglio bellissima per i mondiali di Roma di nuoto del 2009. Facciamo una virata rapidissima, passiamo al calcio. Direi che insomma in Italia il personaggio dell'anno è stato sicuramente Mourinho, che è anche immortalato nell'almanacco Panini che è uscito in questi giorni e si può comprare. In Europa invece più che un giocatore mi viene in mente una squadra, cioè il Barcellona, che in fondo è anche uno stile di gioco e persino una filosofia di vita, se vogliamo. Comunque l'Inter il 17 maggio vince il suo 17esimo scudetto, io nel conto metto anche quello vinto a tavolino. Sentiamo la festa di San Siro con Giovanni Capuano. Paolo Bonolis, speaker d'eccezione. San Siro pieno come fosse un derby, colorato di bianco, rosso, verde. Voglia di fare festa, giro di campo alla fine, fuochi d'artificio, applausi e sfottò nel mirino di cori e striscioni proprio loro. I cugini, la Juventus, i nemici lasciati a zero titoli, in una stagione in cui a Mourinho è riuscito davvero quasi tutto, anche battere il Siena 3-0 nella notte dell'apoteosi. Sì, era importante vincere, penso, perché era una festa senza grande senso se non si vince la partita. I ragazzi hanno fatto una partita seria, non hanno scherzato. Notte di feste di fantasmi, come il possibile addio di Ibrahimovic, acclamato dalla gente, pure nervoso, con tanto di battibecco per un cambio negato. Ma del futuro ci sarà tempo per parlare da domani. L'Inter si gode scudetto e vittoria firmata da Cambiasso, Balotelli e Ibrahimovic, senza lasciare nulla indietro. 3-0, da veri cannibali. Siamo sempre in compagnia di Dario Ricci, collega della redazione sportiva di Radio 24. Tra poco ti lascerò anche fare un commento a ruota libera su Mourinho. Prima di andare in onda mi hai espresso dubbi almeno sullo stile dell'allenatore portoghese. Restiamo però soprattutto al fatto sportivo sul campo. L'Inter domina in Italia, anche in questo campionato è in testa. In Europa invece sembra un po' smarrirsi. Quest'anno, nell'anno solare 2009, ha preso delle belle batoste dal Manchester prima e dal Barcellona poi. E a proposito di Barcellona, il Barcellona è stata la squadra dell'anno, la sua apoteosi sicuramente è stata raggiunta con la finale di Champions League a Roma il 27 maggio, un 2-0 rotondo, come si dice nel gergo calcistico, al Manchester, e poi il coronamento c'è stato anche con il pallone d'oro assegnato a Messi. Allora Dario, una parola sul Barcellona e più che sull'Inter, su Mourinho a questo punto. Ma direi che il Barcellona vinci tutto è un po' la fotocopia, l'espressione in campo di quello che è una filosofia di gioco, una filosofia di costruzione di un club. Non a caso sono molti i protagonisti di questa squadra che vengono dalla cantera, no? Proprio dalle giovanili del club, a partire proprio dall'allenatore Pep Guardiola. Quindi direi un dominio strameritato, vittorie strameritate, e anche guardiamo alla Catalogna con una certa ammirazione con sotto invidia. Il profilo calcistico. Sì, ma devo dire che prevale l'ammirazione, perché prima di poterli invidiare bisogna arrivare a quel livello. Se non c'è, no? dubbio, giocano talmente bene che bisogna solo ammirarli, è vero. Infatti io il pallone d'oro l'avrei diviso in tre, perché se lo è giudicato meritatamente Messi, anche Xavi e Iniesta sono veramente due professori del calcio. Vabbè, erano comunque nei paraggi del podio, quindi erano lì quasi sì, e poi anche nel FIFA Football Player, insomma, tutte queste cose qua, questi premi che valgono più per noi addetti ai lavori che forse per il valore in sé, ma che fanno sempre notizia. Dicevamo Mourinho, Mourinho appunto ha avuto questo impatto frontale, direi così, con il Barcellona, si è reso conto di quello che manca ancora all'Inter per arrivare a quel livello. Rimango convinto che debba ancora mostrarci molto sul campo da gioco, e che forse ci ha mostrato fin troppo a bordo campo, fuori dal campo, insomma. Soprattutto queste ultime settimane sono state un po' nervose per Mourinho. Senti Dario, abbiamo poco tempo, ma dobbiamo correre e ricordare un po' tutto. Non abbiamo il tempo per approfondire il mercato calcistico veramente folle, pazzo, con cifre incredibili quest'estate, con i passaggi di Casacca, di Cristiano Ronaldo dal Manchester al Real Madrid, di Kakà dal Milan sempre al Real, che ha un po' fatto razzia nel supermercato estivo, e poi Ibrahimovic, dopo una lunga trattativa, un tiro e molla un po' noioso, un po' stancante, è passato dall'Inter al Barcellona con lo scambio con Eto'o. Una battuta sui sorteggi invece, che si sono svolti il 5 dicembre, parlo dei sorteggi per i mondiali, anticipati dalle polemiche sulla mano di Henry nello spareggio tra Francia e Irlanda, che verrà sicuramente consegnato alla storia. Per l'Italia un girone di ferro con Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia. Girone che più facile non si poteva avere, no? Non si poteva sperare, no? Quello pescato dalle mani di Charlize Theron nel sorteggio di Città del Capo. Ci sarà quindi modo per rodare i motori, no? Visto che spesso si dice che le grandi, come l'Italia ECA, essendo campione in carica, utilizzano la prima fase per mettere a punto tutti i meccanismi in vista degli scontri decisivi. Al tempo stesso un girone così ci toglie anche tutti gli alibi, bisogna passare primi. Celebriamo invece un altro grande campione di questo 2009, parlo di tennis e parlo di Roger Federer, dopo un 2008 decisamente orribile. Federer venne anche beffato nella sua Wimbledon da Nadal, invece nel 2009 il grande riscatto, soprattutto il 7 giugno, una vittoria simbolo per Federer, il suo primo Roland Garros, il torneo di Parigi. Sentiamo Dario Puppo. Adesso che ha fatto suo anche il Roland Garros, al bar del tennis torneranno a chiedersi se Roger Federer sia il più grande della storia del suo sport. Di certo, con il successo in 3-7 sullo svedese Söderling nella quarta finale consecutiva dei French Open, lo svizzero può vantare un palmarès difficilmente eguagliabile. Con il successo di Parigi, Federer ha eguagliato il primato di 14 major di Sampras, destinato a essere presto migliorato, è arrivato a 20 semifinali consecutive nelle prove dello Slam, impresa difficilmente ripetibile, ed è entrato nella ristretta cerchia di chi ha vinto almeno una volta i quattro più grandi tornei della racchetta. Oltre a lui, gli altri sono Perry, Budge, Emerson, Lever e Agassi. È stato proprio il kid di Las Vegas, di bianco vestito, a consegnare la Coppa dei Moschettieri a Federer. Diciamo che Dario Puppo è stato un buon profeta, perché naturalmente il palmarès di Federer è stato aggiornato poche settimane dopo con la vittoria in finale con Roddick a Wimbledon, quindi è arrivato a 15 slam, record assoluto per un campione positivo. Voglio ricordarne uno finito un po' nel fango, insomma anche senza un po', e cioè Tiger Woods, il grande giocatore di golf, che in poche settimane si è visto arrivare addosso una valanga: prima gli scandali sessuali, le corna, i tradimenti, il possibile divorzio dalla moglie, poi gli sponsor che sono andati in fuga, addirittura sospetti di doping. Insomma, ci sarebbe davvero da fare una puntata solo su Tiger Woods. Invece Dario, ti lascio l'ultimo minuto per ricordare quello che casomai ci siamo dimenticati in questo anno di sport. A me vengono in mente almeno due cose fondamentali, cioè la Formula 1 pazza di questa stagione 2009 con la Brown GP che ha vinto il mondiale, Massa che ha rischiato di perdere un occhio in Ungheria e poi Schumacher che ha annunciato il suo ritorno in pista con la Mercedes per il 2010. E per finire, almeno ricordiamo i mondiali di atletica a Berlino dal 15 al 23 agosto nel segno di Usain Bolt. Mi piace ricordare l'immagine di Usain Bolt e il suo sorriso, ecco, quello è importante da conservare come eredità e promessa per il nuovo anno. Dominatore dei mondiali di Berlino, 100 metri e 200 metri, doppio oro e doppio record del mondo, come un anno prima aveva fatto a Pechino nell'occasione olimpica. Beh, ecco, il regalo più bello per il 2010 per lo sport, il sorriso, la gioia che ci mette Usain Bolt ogni volta che scende in pista e l'allegria che regala. Ma te lo ricordi quando la mascotte di Berlino l'ha preso in braccio, in spalla, e gli ha fatto fare il giro dell'Olympia Stadium? È davvero è stato uno spot, vero spettacolo. Uno spot eccezionale per lo sport, scusate il gioco di parola, però c'è un altro campione che ci siamo dimenticati, che tra l'altro in quanto a sorrisi fa una piacevole concorrenza a Usain Bolt, ed è Valentino Rossi, che quest'anno ha vinto l'ennesimo mondiale, ho perso il conto, nel moto mondiale. Tra l'altro il 27 giugno con la vittoria ad Assen è arrivato a quota 100, quota peraltro superata, quindi si accinge a fare meglio addirittura del grande immortale Giacomo Agostini. Dario Ricci, grazie per questo viaggio a ritroso in questo 2009, ci risentiremo presto. Faccio a te naturalmente, a tutti gli ascoltatori, di nuovo gli auguri di Natale, che è passato da un giorno, ma insomma siamo ancora qui in clima di festa. Noi ci ritroviamo il 2 gennaio per questa seconda puntata speciale di riepilogo dei fatti del 2009. C'è tanto da parlare, gli esteri con l'anno di Obama, poi c'è l'incidente ferroviario di Viareggio, faremo un'incursione nel mondo dello spettacolo, dello showbiz, con soprattutto la morte di Michael Jackson. Ottavo giorno @radio24.it per chi ci vuole scrivere e commentare anche queste nostre scelte per il meglio o il peggio del 2009. Ringrazio Valerio Rocchetti in regia e da parte di Emiliano Enrico buone feste a tutti.